Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Questa sera cominciamo a entrare nel cuore della seconda rivoluzione quantistica esplorando il primo dei quattro filoni di indagine in cui è stato suddiviso il Quantum Technology Flagship, il più recente dei programmi di finanziamento da 1 miliardo di euro dell'Unione Europea. Parleremo di quelli che vengono chiamati simulatori quantistici. Per esempio, immaginiamo di voler simulare il comportamento di un muro durante un terremoto. Per risolvere problemi di questo tipo, gli scienziati possono dividere il muro in tanti oggetti più semplici da simulare, come i mattoni di cui il muro è composto, e quindi calcolare con un computer classico le forze che questi mattoni si scambiano. Questo approccio funziona bene in settori che vanno dalla meccanica alla meteorologia alla formazione delle galassie, ma quando per esempio si vuole simulare il comportamento di una molecola che è dominata dalle leggi della meccanica quantistica, la sfida diventa quasi impossibile. Ed è qui che entrano in gioco questi simulatori quantistici di cui parliamo con Leonardo Fallani, professore di fisica della materia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze. Buonasera, buonasera Fallani, benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, senta, forse possiamo provare a continuare con questa metafora del muro. Le chiedo quali sono questi muri quantistici, forse possiamo chiamarli così, che vorreste riuscire a simulare? I muri che vogliamo simulare sono, ad esempio, come già da lei introdotto, come si comporta una molecola, qual è il comportamento di una molecola, quali sono le reazioni chimiche che questa molecola può sviluppare, oppure anche perché certi materiali che conducono l'elettricità con certe proprietà piuttosto che altre. La cosiddetta superconduzione, no? Questi materiali, per esempio, che conducono l'elettricità senza resistenza. Esatto, esistono dei materiali che, se raffreddati a temperature molto basse, sostanzialmente ci permettono di condurre elettricità senza spesa di energia, quindi senza pagare la bolletta. Il problema è che i materiali che conosciamo hanno questo comportamento soltanto a temperature enormemente basse. Si pensi che all'inizio del Novecento, quando sono scoperti questi materiali, questi devono essere raffreddati a meno 270 gradi. Ora si riesce a avere un comportamento di questo tipo a meno 100 gradi, centigradi, però non si sa perché la materia ha questo comportamento, e quindi questo ci impedisce anche di sviluppare, di progettare nuovi materiali che possono avere questo comportamento superconduttore anche a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, e sarebbero materiali assolutamente rivoluzionari. Quindi, insomma, questi muri quantistici, diciamo così, sono questi materiali con delle proprietà assolutamente straordinarie che non riusciamo bene a comprendere, tantomeno a simulare con metodi classici. Ecco, ma che cos'è alla fine uno di questi simulatori quantistici? Assomiglia a un computer tradizionale? È un po' diverso, diciamo. L'idea era venuta a un grande fisico negli anni '80, Richard Feynman, premio Nobel per l'elettrodinamica quantistica, certo, che si rese conto del fatto che quando si prova ad affrontare le leggi della meccanica quantistica in un computer classico, ci scontriamo davanti di nuovo a un muro, però in questo caso un muro, sì, è un'impossibilità computazionale, di diciamo, questi calcoli. Si pensa che se noi abbiamo, diciamo, dei mattoni classici, se passiamo da un muro fatto di 100 mattoni a un muro fatto di 200 mattoni, il tempo necessario per fare il calcolo aumenta del doppio, quindi si raddoppia la potenza di calcolo necessaria. Ma se noi vogliamo simulare una molecola fatta di 100 atomi, di 100 mattoni quantistici, 100 chiamiamoli così, quantistici, esatto, che possiamo chiamare esattamente così, e da questo passare da 100 mattoni quantistici a 200 mattoni quantistici, la potenza di calcolo aumenta di migliaia, di miliardi, di miliardi, di miliardi di volte. Certo. È quello che in fisica si chiama uno scaling esponenziale, quindi il problema è sempre più difficile e tanto maggiore la sua complessità. E allora l'idea di Feynman fu quella di abbandonare l'ipotesi di fare questi conti con un computer classico. Allora l'idea era quella di Feynman, che all'epoca questa era soltanto una congettura, che poi adesso stiamo realizzando davvero in laboratorio, è stata quella di dire: va bene, non possiamo calcolare le proprietà di questi materiali, allora proviamo a realizzarne dei prototipi. Quindi un simulatore quantistico è una specie di prototipo di un materiale, quindi una sua versione, se vogliamo, realizzata con dei mattoni di tipo diverso. E qui le posso fare un esempio. Ad esempio, consideriamo questo superconduttore fatto di tanti elettroni che si muovono in un materiale. Noi non sappiamo calcolarlo, non sappiamo simularlo, allora proviamo a costruirlo. Cioè, l'idea è di realizzare un prototipo fatto non con elettroni, ma fatto con degli atomi, quindi con degli oggetti quantistici diversi, che però possiamo controllare, manipolare. In particolare possiamo manipolare utilizzando la luce laser. Quindi utilizzando il laser possiamo realizzare delle specie di gabbie di luce, quindi dei materiali fatti di luce in cui questi atomi si possono muovere. Questa degli atomi intrappolati nelle gabbie di luce è un modo, ce ne sono anche altri. E la cosa bella che possiamo fare è controllare, sapere esattamente tutto di questi atomi. Possiamo controllare il modo in cui interagiscono tra di loro, possiamo cambiare la struttura di queste gabbie di luce. È come se aveste a disposizione una specie di prototipo universale, chiamiamolo così, fatto di mattoni che sono in grado di impersonare fenomeni quantistici diversi. In una specie di, chiamiamolo, Lego quantistico, sì. Abbiamo questi mattoncini che possiamo assemblare insieme per fare materiali di tipo diverso e quindi anche guidare quella che sarà la ricerca verso sviluppare dei materiali veri e propri che hanno delle proprietà che adesso possiamo solo immaginare. Grazie Leonardo Fallani. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani per la terza puntata dello speciale dedicato alla seconda rivoluzione quantistica. Buona serata.